se mi compri. Ciao. Sì, che ti compio, grazie. Un attimino, già ti compio, sì. E adesso guardo, dai. No, quello da coso, quello elettrico voglio io, non quello che mi hai mandato adesso, quello elettrico. Ti ho mandato anche quello elettrico. Ah, quello non l'ho guardato ancora, aspetta, perché stavo così, chiacchierando con gli amici qua. Adesso guardo, dai, adesso guardo, un attimino, riprendi Franco. Sì, capo, io non ascolto neanche a Graziano. Ma il PMR non si ascolta, invece il 27 arriva a bomba. Va bene, dai, niente di particolare. Avanti a tu. Su via, sì. Buonasera. Non si intende. Ciao, grazie. Ciao, ormai non si sente, non sente neanche a me. Ho capito, grazie. Evidentemente non si sente, Franco. A me non mi senti. Perché io sono con l'altimino interno, capito? Anche io con l'antennino del portatile. Ma nemmeno con l'antenna. Non lo senti a Gian Maria e a Graziano, fra? No, negativo. Non lo sento neanche uno. Gian Maria, non ti sente, Franco? Non ti sente, nemmeno a te, Graziano. Lo so, l'ho copiato. Già lo sento io. Neanche con questa esterna mi sente, dall'altro giorno, prima mi sentiva, Perché hai mangiato troppo oggi, sei pesante, per quello che non ti senti. Buona legge era il ciubocchito, dozze mintate, un burro era, vera, 5 ore vera, a Brossolendi, non l'hai visto, allo spiedo, Te l'ho visto, sì. Capita, già ti tratti bene tu, vai. No, non mi pensi due voci. Ma tutta questa cosa, la sola te l'hai mangiata, non è possibile, ingantirati. No, eravamo una quindicina così, ma noi la solo visto, no, tutto non sta giù. Non l'ha giù butto, venire a rubare mania, oi, salotti non seno. Ti conviene, ti conviene, non se n'ha salotti. Se no ingrassi i cucchini oggi tu. Ciao Gian Maria, avanti. Ma già un vitello vi avete mangiato. Ciao Gian Maria, se hai parlato non ci ho sentito. Gian Maria, ti hai mangiato già tutto. Non lo sento nemmeno io adesso, fra Gian Maria. Gian Maria, ti hai mangiato tutto. Io la sento solo a te, sento. Gli altri niente. Sono Graziano, c'è. Va bene, dai. Va bene, Graziano, dopo ti faccio una telefonata che ti devo chiedere alcune cose, ok? Già sono qua. Mi sto entrando, mi sto arrivando. Allora mi ripigi un poco di cosa. La metà a posto, già sono qua, già ti chiamo quando ho finito. Brugliavento. Stamattina io ti ho telefonato, ma avevo la segreteria, o forse perché non hai risposto e allora sei agganciata alla segreteria. Cosa te ne fai tu della segreteria? Non si va nulla. No, io non ne pongo mai la segreteria, conto su io questo telefono, la segreteria. Pure mia figlia mi ha chiamato stamattina mentre c'era la segreteria. E che hanno apposto la segreteria? Forse perché non hai risposto subito, è per quello che si è inserita la segreteria, perché fa così, fa. Va bene, dai. Avanti, fra. No, ma la segreteria al telefono c'è la di serie, ce l'ha quella lì. Ti entra lo stesso anche se tu non vuoi. Sì, perché se non rispondi subito, dopo alcuni squilli si inserisce la segreteria e ti dice magari che o è spento oppure non è raggiungibile in quel momento. Sì, oppure lasciarle un messaggio a chi stai chiamando. Quello lì è... ce l'ha di obbligo, ce l'ha il telefonino. Infatti il messaggio felice di lasciare un messaggio. Tanto cosa stiamo di darci il messaggio? Non è cosa, anziché tanto vale aspettare a quando si libera per fargli un'altra telefonata. Va bene, grazie, dai, da poi diciamo, ok. Beh, attacca la 27, grazie, quando arrivi a casa. Gio Maria, ripreso hai? Gio Maria non si sente, vabbè. Si vede che Ugo, sì, sto andando male. No. Sì, sì. E va bene, ok. Stanno salendo, eh. Sì. Sto cercando cosa qua, mi Audi. Che diso, genere un cavetto. Io ce l'ho quello. Ah, io già lo so, già ho capito. Di quello che stavano parlando poco fa. Ci stanno ancora parlando, ma qualcuno non ha capito un cavolo. Già lo so, sì. A futidini, bra. A futidini. Ma io già ho capito però di cosa stavano parlando e che tu ce l'hai, già lo so. Ecco, vedi che non è come dicono loro, che è diverso il cavetto, solo per guardarlo è tutto diverso. Ed è proprio apposito al Baufeng, non è che tu puoi fare tante cose. Beh certo, no, qualcuno stava parlando che lo poteva costruire, ma cosa sei di Zenia, a parte il fatto che non ne vale la pena. Te lo ordini un paio di giorni, ce l'hai, 6-7 euro, quello che costa, e basta, cosa stai, chi mi... vai a comprare lo spinotto, i due spinuti anzi, e più il pezzetto del capo, e ti costa di più di quanto costa arrivando allo fatto originale. Infatti, ma poi non c'è bisogno di acquistare, se uno ci deve acquistare un Baufeng, guardi, spendi, al posto di spendere 20 euro, ne spendi 30, ne spendi e ti mandano anche il CD e il coso, come ho fatto io. Certo, in effetti è così, anche perché c'è tutta la spiegazione da fare, non è, anche se hai il cavetto e non sai come devi fare col computer, non è così semplice, invece se hai il CD, almeno la spiegazione, chi sa usare il computer si arrangia e riesce. Infatti è così, infatti quando per fare il tuo gli avevo dato il CD e il cavetto. Lo so, ma adesso ce l'ha anche lui, credo che ce l'abbia anche lui, perlomeno. Davide, usciamo da qua, non facciamo il giro. Adesso sono intenzionato a ordinarne uno nuovo, perché questo mi è caduto e non si vede più la frequenza. Tutto il display è praticamente nullo, non c'è più niente. Capo, sì, vedi, se te lo devi prendere nuovo te lo fai ordinare, te lo ordini direttamente, oppure gli scrivi quando gli fa l'ordine di aprirtelo, di memorizzartelo già, di aprirlo, e te lo apro, te lo mandano già apposta, te lo mandano, oppure ti compri anche il cavetto, tutto insieme. Sì, beh certo, infatti conviene, non si sa mai, per ogni evenienza avere il cavetto. È una comunità, certo, fai così. E vabbè, adesso vediamo, dai. Perché sto decidendo se prendere questo o se prenderne un altro di quello direttamente alimentato dalla rete elettrica. Cioè per non avere il problema della ricarica, eccetera, capisci? Sì. Va bene, meglio così, ma io dico che al posto di prendere un Baufeng prenderti un qualcosina di piccolo, però di quelli a 12 volt, è meglio, ci sono quelli piccolini che attacchi all'alimentatore e sono, sembrano quanto un pacchetto di sigarette. Infatti sono orientato su quelli, sto pensando di prendere quelli, capisci? Anche se questo, vabbè, ho la batteria grande qua da 3800 mAh anziché da 1800, la sua originale è così, no? 1800, io ce l'ho addirittura da 3800, sì, che l'avevo fatta venire ad arrivare a parte, l'avevo pagata roba di 20 euro, solo la batteria, per dire, no? Insomma, vabbè, ho questo, potrei continuare a utilizzare questo finché funziona, ma un domani che questo non funziona più, la batteria è un peccato averla così senza utilizzarla. Stavo pensando, non lo so, vedremo cosa mi viene in mente, dai. Vabbè, quella si può sempre prendere, non sono le 20 euro che ci rovinano. Certo, non è una questione di soldi, anzi io non ne faccio una questione di studio, non me ne frega niente, non sono a quel punto, ma però era anche una questione di convenienza. No, siccome mi è piaciuto molto quello, anche soprattutto in ricezione, quello che è a Graziano, che ha una ricezione bella, chiara, proprio potente, perché me l'ha mandata registrata e ho sentito che va molto ma molto bene. Allo stesso tempo ricevevo molto bene anche, tra l'altro. E appunto sto decidendo se prendere quello o prendere di nuovo un altro uguale a questo. Sì. No, io ne ho due, non ne prendo più. Ne ho due uguali, sono micidiali. Uno addirittura fa sino a 8 watt e l'altro 5 watt. Sì, tu hai due tipi, sì. Hai, tu hai il Mark 2 e il Mark 3, sì. Ho capito. Sì. Vabbè, io ho il Mark 3 stesso, che è questo che sto usando. Ne ho un altro, ma l'altro è un giocattolino da niente. Sempre 5, però è un giocattolino da niente. Per cui non mi piace. Vabbè. Tranquillo. Con nuovo. Con la vetro. Con la radio, quindi non è che ci capisca. Allora mi sento. Non ho ancora vetro. Infatti. Ok. Dai, deciderò cosa prendere. Oggi questo costa intorno ai 42, 43 euro, una cosa del genere, dai, siamo lì, niente di particolare, anzi rispetto a prima è abbassato anche, perché me ne ricordo che costava più caro. Sì, prima costava un po' di più, costava. Prima tra una cosa e l'altra veniva intorno ai 60. Sì, forse anche 65, è vero, me lo ricordo bene. Va bene, dai, comunque. Andare così. Grazie, e beh, rientrato sì. Grazie nel pigente della Graviglia. Grazie, cerca di cambiare stazione radio che ci stai disturbando, grazie. Che dolcini, li cazzo è il giovanotto, mi intendi? Vedi grazie, non se ne fottende. Grazie, cambia stazione, ci stai disturbando. Meno male che non può mangiare, sarebbe potuto mangiare guai. Infatti anche quello è vero. C'è da ammirarlo solo perché è tranquillo, è meno freghista, però deve cercare di regolarsi un pochino, perché già è Manu, già ha 64 anni, sicché già sono problemi sui. Capo, Graziano è come un amico che ho a Sassari, è anche mio collega, era al lavoro, che poteva avere problemi sino a Cina, lui era sempre scherzando e ridendo, non ne fottiva nulla, di nulla, di nulla. Poi, ma di voi gli dizia, alcuni gli dizia, via da te non fai problemi, se c'è un problema va giù e tutta ammazza gli dizia. Beh certo, no, ma queste persone così, che prendono la vita così spensieratamente, sono da ammirare, perché purtroppo ci sono quei caratteri che basta che abbiano anche un piccolo raffreddore che subito si rattristano e non riesci più a raddrizzarli in maniera decente e con l'umore. E invece lui è tranquillo, io ho sempre detto, Graziano se non ce l'avessimo in frequenza l'avremmo dovuto inventare, perché è simpatico, è una persona molto squisita che dà filo a tutti e allo stesso tempo tutto quello che gli dici lui ti risponde per il rime non c'è problema. Capo, sì, ma fanno bene. Stanno scendendo? Non è... Capita, uno non si deve, anche se c'è un piccolo problema, mica si deve ammazzare, ma cosa meno a tutti. Io prima, vabbè, problemi di lavoro. Ok, Ugo. Fu in travaglio ad Abui, Sciafura, non mi ricordavo più che ero lì. Dopo un'ora non mi ricordavo che ero al lavoro. Beh certo, è guai se uno si tiene i pensieri così per tutta la giornata e allora uia, così vive male, invece bisogna essere un pochino più espansivi in tutto e per tutto, non solamente in questioni di lavoro, di salute, di tutto e anche di più, perché sennò uno vive male, invece se non dico di fregarsene definitivamente, però insomma se uno la prende con filosofia, la vita è più bella, no? È più tranquillo. Ok, perfetto. Sta in ambulanza, seguite la clinica medica. Io. Sì, avanti. Danilo. Ciao, ciao Danilo. E beh, come va? Bene. Ascolta, sono dentro casa. Aspetta che provo a piazzare l'antenna. Ok, anch'io sto uscendo. Parlando. Parte alta della casa, dunque praticamente sono quasi all'aperto, si può dire. Per cui va bene così. Però mi ho costruito anche un antennino, mi ho costruito e uno di questi giorni lo voglio installare, così almeno posso utilizzarlo anche quando sono nella parte bassa della casa, perché dalla parte bassa non c'è niente da fare col gomino. Ok, aspetta un attimino che provo a piazzare, tanto ce l'ho qua davanti, lo piazzo su. Ok, d'accordo, prova. Ok, dimmi come sto uscendo. Sì, stai uscendo. Però, no. La verità ti sentivo meglio prima, perché prima non c'era QRM sotto, adesso c'è QRM, riprova ancora. Ugo, dove sei? Come c'è QRM così? Veramente? Sì, adesso sento un leggero rumore di coso, di QRM, di interferenza, dai. Mentre invece col gommino uscivi meglio, più pulita era la radio. E anche come potenza forse era un pochino più potente anche. Giulia, è un gommino che sarà buono. Un attimo, grazie. Via, c'è quell'antenna esterna. Sì, aspetta, grazie, no, sono ancora in PMR io, no? Sono con Danilo in questo momento. No, 27255, canale 23. Grazie. Canale 23, 27. Canale 155. Se vuoi andare lì, se no c'è quel signore sul canale 10, 27, 075. Adesso vengo di culo! E le squilli! Per gli squilli? Quale squilli? Ah, vabbè, dopo ti chiamo io, ti chiamo al telefono, tu tieni il telefono acceso. Giulio, ma la frequenza dal 10, 27, 25, 50. No, canale 10, 27, 0, 7, 5. Ripeto, canale 10, 27, 0, 7, 5. E adesso la metto, va. C'è gente lì c'è gente, io non ci sono in frequenza, sono qua con Danilo, sono in PMR con Danilo. Vai lì, se vuoi andare lì, va bene. Ok, perfetto Giuseppe. C'è Gianni, credo, insomma, Marco e qualcun altro. Avvisami quando stanno entrando l'ascensore. Sono ancora fuori, non sono entrati dentro. L'ascensore? Graziano! Io solo, mi senti? Il biglietto ho pagato lei per l'ascensore. No, no, non gli ho schiacciato manco pulsate per chiamarlo. Schiacciano bene. Che... Stanno entrando adesso, Quando riscendo... Leva la testa. Ti si apre la porta. Comunque anche tu c'è un QRM leggero leggero che ti segue, giuro. No, rimanete negli androni delle scale, non entrate dentro, è allontanato. Tu hai nemmeno tanta trasmissione e nemmeno tanta ricezione. È ovvio, se ti sento io quel ramato mi devi sentire anche tu, perché non hai molto segnale, è quello, è. Ti sentivo meglio poc'anzi. Allora aspetta che la ripiazzo. Rimetti. Però mettiti dove eri prima, perché se cambi posizione magari può essere che ti sento anche peggio. E beh, grazie, acceso dai il baracchino. Ok, come mi senti adesso? Sì, che ti sento, come non ti sei certo che ti sento. Ma meglio di prima. Davide, li vedo al terzo piano, sono arrivati. Cosa faccio? Ok, le fate entrare dentro, appena entrano dentro... Allora, evidentemente la direttiva ce l'hai puntata dall'altra parte. E attore, non lo so. Ne parte. Io adesso non ti sento bene. Ok. Ce l'hai fatto che c'è un'impianta, dopo appena hai detto il caso, hai fatto l'uovo e a posto l'hai fatto. Ho capito. Avevi il capo la guaina rotta e si è bagnata e si è ossidato praticamente, così. E allora, devo passare sulla scala, adesso lo andrò qui, adesso è a posto almeno. Ti sento anche a te, figura, se tu non si vuole su. L'ho messo! L'hai messo, grazie a... Antonello, l'hai sentito qua? A chi? Roberto, cambia stazione, ci stai disturbando. Io qua, no! Come no? Antone! Non mi sento tanto io. Non intendi? Antonello, mi senti? Non lo sento giù. Ok, oltre a quello che si perde, poi era anche ossidato il cavo, è chiaro che andava male, certo. Aspetta che c'è anche Danilo. Danilo, hai cambiato il gomino? L'ho messo il gomino, ma non sento quasi a nessuno, sento solamente a te e a Graziano basso. No, ho rimesso nuovamente quell'antenna. No, Danilo, adesso ti sento peggio, perché non sei nella stessa posizione quando hai iniziato la prima volta, evidentemente. Avete rotto. Che di soli 50 centimetri dalla posizione dove sei, che magari non c'è più quel varco giusto e allora vai male. Trova la posizione migliore, e magari in ricezione, perché se meglio mi senti e poi ti sentirò senz'altro meglio anch'io. Mentre io parlo, trova la posizione migliore all'interno della casa e dopo parli, ok? Ok, così ti prendo al massimo della potenza. Tu a me come che mi senti adesso? Chiaro o sempre con questo QRM forte? Adesso sei perfetto, sai cosa vuol dire perfetto? Sei perfettissimo in quella posizione, perché ripeto, questa frequenza è maledetta in UHF, è una frequenza maledetta, basta che ci sia un piccolo ostacolo che subito ti dà fastidio, sia in ascolto che in trasmissione, per cui vabbè, adesso sì, perfetto, molto ma molto meglio anche della prima volta che ci siamo sentiti, voglio dire appena ci siamo sentiti stasera, capito? PMR, non in 27. E parlando di PMR, certo, parlando di PMR, è ovvio, 27 non c'è problema, 27 ma non è più 20, sicché, caspita, problemi ci sono. In PMR, io sto parlando del PMR, è una frequenza maledetta, perché basta un minimo di spostamento, ma veramente minimo, anche di soli 50 centimetri, che già ci possono essere problemi, ed è per quello appunto che bisogna trovare la posizione adatta, la migliore in assoluto. Io adesso in questo momento mi trovo seduto a casa, al centro del letto. Se mi dovessi spostare verso la parte bassa del letto o la parte più alta, già incomincio a avere problemi. Mi sono spiegato? Sì, sì. Tipo adesso, sono come ero poco fa. Adesso invece ho rimesso il capo bene come era prima. Che differenza? Sì, una leggerissima introduzione di interferenza, ma niente di particolare. Prima, il primo passaggio che hai fatto era migliore, dai. Quindi questo qua è il migliore, giusto? Questo è in assoluto il migliore, questo è pulito, pulito, pulito, veramente. Non si sente nessun fruscio, niente. Proprio bello, vediamo se ti sente Antonello, che è lontano, Antonello è lontano, già non sai dove abita. Antonello, hai sentito a Danilo? Antonello è caduto dalla sedia. Dov'è che modula Antonello? Da dove modula? State ostruendo la linea. Molto in alto, dai, vicino al level praticamente, dove c'è la cosa del level, in quella zona lì. Magari a provare con lui che è un pochino lontano. Liberate la linea. Risponde, Antonello, ci sei? Liberate la linea. Senta Antonello, Giulio. Neanche io. Allora, grazie, riprendi tu, vai. Chi è? È Danilo. Io sono. A Danilo già l'ho sentito, stavo facendo bene poco fa. Appunto, sta uscendo bene, è quello. che ti sto dicendo. Adesso Antonello non c'è, si è ritirato, ha detto che aveva il capo ossidato, ti puoi immaginare, per cui era pieno di stazionari, e allora è per quello che stava andando male. Ma adesso dice che ha sistemato il tutto, boh, non lo so. Va bene, dai. Oh, grazie. Sì, sul 10, 27.075. E appunto, c'è gente, c'è, no? Non li stai ascoltando? Sì, ma l'ho abbassato, se no non sento qua. C'è Claudio, Gianni e Coso. Normalmente rinnovo. E Gianfranco c'è anche, dai, Gianfranco ogni tanto si affaccia, Marco anche, insomma ci sono loro, dai, ci sono loro, va bene, dai, avanti Dani. Sì, no, stavo ascoltando anche a Graziano, Graziano mi arriva a basso, però già lo sento, con un pochino di QRM, no, già, è che questo spinotto PL, siccome c'ho gli adattatori per arrivare al portatile e non vanno bene, devo mettere l'originale che avevo prima in un'antenna portatile e adesso non ce l'ho più, non la trovo più, mi sento uscita, se no che l'ha presa mia figlia e chissà dove ce l'ha buttata. È possibile Dani, già lo sai, come succede alle volte i bambini, i ragazzi lo prendono e poi fanno sparire le cose, ma già è a casa, prima o poi già la ritrovi. Sì, volevo dirti, come antenna esterna cos'hai? Ti conviene comprarti una DX30 della Diamond, che funziona sia in U che in U, e va benissimo quella, perché tu te l'avevi autocostruita, o te la autocostruisci bene come si deve, e poi o te la fai fare da Luca, che Luca è molto bravo facendo le antenne, e dunque allora sì, vai alla grande. No, ne ho una che è maggiore alla 30, la 510. Daniele, questo passaggio che ha fatto poco fa lo sentivo perfetto. Anch'io, la buon'anima. Anch'io ti sento, caruccio. Tu sì che mi cammi in nervo. Eia, e lui. Ti stavo chiamando poco fa per dare un controllo a Danilo. Sei sparito, dalla sedia sei caduto, Antone. No, mi ha chiamato Simona. E se lo sei entrato subito, lo sai. Quindi comunque già l'ascolto da lì, l'ho ascoltato il segnale di 7, la verità non so che sia, sarà nuovo, questo non te lo so dire, ma comunque sia lo sento. E a me come mi senti? Vabbè, segnale l'opera è caro, bello caruccio, bavardo. E a me come mi senti, Antone? Fondo scala, sì. Ehi, e sono con l'antennino mio, Antoni, quello interno. Io voglio capirti. Ho capito, si vede che la posizione per la meta è migliore. Bene, bene, bene, bene. Avanti Danilo, così già ti sente Antonello, vai. Sì, ciao Antone. Come mi senti, chiaro o con il QRM dietro? Ho capito, il QRM. Come mi senti, chiaro? O con il QRM che ci sta dietro? Segnale 8, sì, radio 5. Non t'ho capito, cos'è che mi hai detto? Un segnale di 8, sì. La voce si sente abbastanza forte, quindi sei a posto. Però un segnale 8. Non è fondo scala, ma è 8, già va bene. Ah? Buono, buono. Meglio così. Hai visto? Da quella posizione arrivi benissimo anche lì su. E per cui va bene così, Dani, a Puglia, alla grande. Sì, no, ripeto, questo apparecchietto è bellino, ma veramente bellino, sono portatilini di 4 soldi, ma allo stesso tempo funzionano alla grande. Basta trovare il varco giusto, quello che interessa, trovare il varco giusto, per cui se uno trova il varco giusto non ha problemi nell'ascoltare e soprattutto nel farsi ascoltare, perlomeno sino a una certa distanza, è ovvio, non è mai la 27, è ovvio, questo si sa. Bello Antonio. Accendi la 27, che è meglio, qua a cantente che non intendi. E quando parli in 27 parli con muro, perché non c'è nessuno. Sul 10 c'è un po' di gente. Adesso? Ma secondo me giorno non trovi mai un cane. Cosa fai? Parli col muro, tutti parlano in PMR, cosa fai? Trasformi il PMR in 27, già lo sai che ci vogliono tutti e due gli apparati, non è che ci vuole uno solo. Eia! E appunto per quello. Va bene. Dai, io mi stacco un attimino, dai. Ti lascio voi tre. Io mi stacco un attimino, dai, vado a fare la merenda, dopo già mi salgo, fra un po'. Tra 5-10 minuti mi salgo. Ok, riprendi da lì. A più tardi eventualmente, se ci sia ancora. Vediamo un po', se no al limite, se non ci siete poi vado in 27, al limite. Ci sentiamo anche lì, casomai. Ok, riprendi da lì, io mi stacco per un momento, mi tenete mi salutate al momento. 5-10 minuti di QRX per me, un panino per merenda, ok? Ok, dai Giulio, ci sentiamo più tardi, sempre se non ho chiuso. Perché fra un po' vado a farmi la doccia, a riposarmi un pochino la schiena. Va bene, chi te ne frega la schiena, Dani? Ehi, adesso, nuda è, tu dove di china. No, ho detto, chi te la frega la schiena adesso che vai a farti la doccia? Già me la frego da solo, non ti preoccupare, Graziano. Se no c'è Antonello disponibile, diglielo Antonello. Pompo! Ma, caggiù Antonello. Ma va solo, sei parlato, grazie. No, con Danilo che sta andando a farsi la doccia, che è stracco morto. Non lo sento Danilo, no. Vado a finire la vana, anzi aspetta che lo chiami io, Dani. Come non mi senti? Non lo sento Graziano. Adesso non sei uscito Danilo, QRM. Adesso? Mi senti? Non sentendo più. Adesso mi senti? E ancora c'è. No, è andato a fare merenda a mangiarsi un panino. Ok, va bene, adesso non l'ascolto, va. Eia, io acceso la 27 sul 10. C'è Claudio, Gianni, Marco, e poi non lo so. No, io sono sempre acceso sul 23, grazie. Sono sempre sul 23, io non mi sposto, capito? Ero sul 23, ho chiamato, non ha riposo nessuno, e sono passato sul 10. Se è sempre acceso qua, non ci sta nessuno. Qua è sempre acceso, l'ho preso. Non ti ho sentito io se hai chiamato. Adesso l'ho acceso, perché qua era un po' disturbato. Sta tu pare accendo la 27. Capito. A Danilo lo sentivo a momenti sì, a momenti no. Ma la 27 accesa ce l'hai? Sì. Prova a chiamare se mi senti. Ma dopo sul 23. Eia! Aspetta che sposto il canale. Luca. Prova. Prova Angurie, prova Angurie, prova Meloni. Ci sono io prima di tutti, questo è il canale mio, non toccate. Questo l'ho comprato io il canale, non si può parlare, capito? Zitto, se no ti passo i diti a te, bravi! Eccoci qua. Qua le sbattere non li sento, grazie. E neanche io. Hai sentito questo signore cosa stava dicendo? No, non ho capito chi era. Ehi, quel campagnolo era. Fallo finire avanti. Avanti, signor campagnolo. Allora, ho detto una zona, questa seconda volta ve lo dico a tutti e due. Questo canale è mio, ve l'ho comprato io, se volete pagate l'affitto. Ah, questo è Bacchizio, grazie. Bacchi, buonasera. Cazzi, tira. E come mai a quest'ora, come mai? Ehi, buonasera Gio Maria, buonasera a Graziano. E buonasera anche agli sprati che stanno arrivando da tutte le parti. Anda bene meglio, avanti Graziano. Ehi, ciao, cos'è oggi sfrattato ti ha la campagna? Nulla Graziano, sono una settimana che non vado in campagna. Sono una settimana a KO. Ah, una settimana a riposo, va. E già fai bene, già fai vero un poco di riposo. C'è una bella giornata oggi, no? Io già sono sceso oggi. Abbiamo fatto un po' di arrostite e a mangiare, e buh. E andare. Io non riesco a camminare, sono male le gambe. Questo tempo è così, quando gira il tempo fa così anche a me, mi fanno male anche a me, mi tocca un po', sta male, ma via mal di capo, è come gira il tempo. Andiamo bene, andiamo, gufo. Ma ti l'hai piazzata l'antenna, bella bene. Purtroppo no, non l'ho messa perché quello di su, no, stavo attaccando con quello di su perché non mi vuole attaccare il campo praticamente. Cosa bella, sto arrivando a quasi alle mani. Ma cosa cazzo, con tutto lo spazio lì, beh, passatelo dall'altra parte. Grazie. Se non passo dall'altra parte, già l'antenna in sé, più cavo è meno rende, io ho una boomerang, capito? Se no passo dall'altra parte, devo entrare in camera da letto, bucare la camera da letto, bucare l'altro muro e poi farmi la curva, ma di cavo ci vuole, grazie. A te un minuto, Luca, vai Gian Maria, che sono al telefono. Ok, ciao, buonasera. Ma chi, cosa è successo, cosa c'hai? Illuminami, grazie. Cosa c'è, che va? Ehi, cosa c'è? Allora, ciao Luca, buonasera, ben ascoltato. La prima, un'ernia addominale. La seconda, un'ernia del coso, come si chiama? Ombelicale. L'altra, inguinale. Anche di voi? Oh boh, cazzo, se ci migliorassimo un bel giorno, per carità, cazzo, Giulio. Cazzo. Oia, Bacchis, purtroppo, oia. E a me mi fanno male i piedi. C'ho tutte le dita dei piedi, tutte addormentate, dal ginocchio fino ai piedi. E adesso mi stanno facendo male le dita. Cazzo, e tutte che sto sempre muovendo, magari... Quando lo muovo mi passa due minuti dopo ricomincia. Mi danno fastidio, Non mi fa dormire la notte, puoi immaginare. Per carità, insomma, ogni caso ce n'è una, là. Ciao Maria, te lo ricordi quanto l'avevo pagato? Il PNR, quello elettrico, quello piccolino. Te lo ricordi? Io non me lo ricordo. Ah, quello preciso è mio? Ehi, ne abbiamo ordinato due, quelli piccoli. Te lo ricordi? L'abbiamo pagato 125 euro, grazie. Però mi sembra sulle 100, 110 costano adesso, Capito? Da 100 a 110 costano adesso, ma hanno diminuito, ma non di tanto. E certe ditte ce l'hanno a 130. Però la maggior parte sono da 125 a 110, capito? Noi abbiamo pagato 125 euro. Aspetta, riprendi che riprendo dopo. Ma che avanti? Sì, è così, è domani, così è. Al zoppo la spina, al zesso, al zoppo la spina. e sono in cerca di fare qualcosa, ma è tutto occupato, non ci posso mettere un ago. Catta, io ho fatto la vita all'oculista l'altro giorno, un anno e più, ti puoi immaginare, Bacchì, e con questo macello che c'è è chiaro che non è possibile, non è possibile. Per cui, e adesso dovevo appuntamento alla diabete e dice, mi chiamano loro, E poi immaginare, anche quella lì è più di 6 mesi o 7 più. E puoi immaginare, Bacchì, non sei da solo, ne ho tanti appuntamenti, ma non mi chiamano, cosa vuoi dire? E così è per tutti, non per noi solo, capito? Sì, ma per me è una cosa impossibile, non ti fa camminare, non puoi fare nulla, non puoi solo fare nulla. Non riesci la notte a girarti dal letto, non ce la fai, bisogna che sveglia. Mia moglie dice, girami a quella parte là, girami a questa parte qua. È una porcheria, Purtroppo, Bacchì, da tutte le parti è così, da tutta qualsiasi il posto che tu vai a appuntamenti, non ce ne sono e non te ne danno, capito? È un macello, Bacchì, è un macello veramente. Da che posso, allora diciamo, si può immaginare, per carità. È così, no, devo fare una visita urologica a novembre, ogni anno a novembre. Quest'anno non sono riuscito a prendere impegnativa. Nulla, non c'è posto. È solo da gennaio che vado a rompere le scatole. Bobo, un attimo al telefono, Bacchì. Attende pure. Giulio, rientrato, sì. Oh, Graziano. Graziano, 27. Ti ha sentato un attimino, Rufo? No, le volevo dire a Graziano, Giovanni, che lo sentivo chiaro al 10. Cioè, praticamente a Marco me lo copriva completamente. Un attimo, fa il telefono, Rufo. E Belucca. E beh, brutto buco, mi senti? Sì che ti sento. Io ti ascolto forte e chiaro. Lo so, beh, sono con la direttiva adesso, ma qualcosa l'ho sistemata adesso. La verticale è a posto, era il cavo di discesa che era in cotto. Adesso esce anche il VU, l'ex 300. Io non riesco a tarare la boomerang, che l'ho messa in terrazzo. Praticamente i canali bassi, A e B ce li ho 1 e 1. Al 10, al 20, 1 e 5, così 1 e 6. Non riesco a tararla, la boomerang è quella alta, dai. Eppure è attaccata alla staffa, facendo massa bene, sotto. Lo stub l'ho regolato, non scendo più di 1,5. Guarda che la bubola non vedi, ti faccio 200 canali, no? Già lo sai anche tu, quindi fai la trattura sul canale 40 per andare bene. No, non ho capito, Pompo. La bubola che devi fare la trattura sul canale 40. Non è un'antenna che ti dà un sacco di cose. Devi fare la trattura lì, in modo che c'hai 40 canali normali e 40 canali sopra, se sei a posto. Dopo che sali più di 40 canali, logico che c'è stazionaria. Pompo, mi hanno detto nel canale 20. No, va fatta su 40, va fatta. Se c'è 200 canali, va fatta su 40. Cosa vuoi dire, Gabbo? Lo so, non riesco a tararla, cioè spostando lo stub rimane sempre a 1,5, 1,6, 1,7. Te lo sto dicendo io, falla sul canale 40 la taratura. Poi lo stub ce l'hai sul radiale, non ce l'hai sullo stilo, lo stilo è quello che è, il radiale è quello che conta. Se tu ci metti un radiale di gameplay, stai tranquillo che esci bene, basta che li... che azzecchi i gradi di creazione e sei tranquillo. Allora, io l'avevo piazzata la prima volta, siccome poi l'avevo smontata oggi per piazzarla sul tetto, purtroppo non ho potuto fare il lavoro perché non si può fare, è un casino, troppo cavo ci vuole. Ce l'avevo a 1,1, a 1,1, 1,2, però nei canali bassi ce l'avevo a rosso, adesso al contrario, nei canali bassi ce l'avevo a 1,1, nei canali, cioè dal 10 in poi a 1,5, 1,6, e non riesco, con lo stub messo a 45 gradi il radiale, buh. Luca, 95 gradi, no, vuole più inclinato il radiale, ma stai scherzando, vuole più inclinato, ma tu io non ho capito, visti lì quanto sono inclinato, mica sono 90 gradi, no? Luca, eia, cazzo, sono con 2 ore già venditi, rispondimi, chi è? Danilo, sì. Eia. Danilo, ti sento, ti sto attratti, ti sento, io vabbè, sono con il gommino, fa un passaggio. Come mi senti attratti? Prova, Dani. Senti, quando mi senti bene? Poco lo senti a Danilo, tu? Poco fa lo sentivo, adesso non lo sento più. Vediamo un po' Bacchisio, avanti Bacchisio. Sì, vediamo un po' se Danilo... Bacchisio, tu mi senti adesso? Adesso lo sento. A Bacchisio lo senti, Pompo? Bacchisio no, ma a Danilo sì. Ah, Bacchisio no, a Danilo sì, ho capito. No, sono con l'antennino interno. Tu come mi senti lui? Bene o come? Io a Danilo non lo sento, Non mi senti? Non lo sento neanche io a Danilo, adesso. Tu che fa grazia, ti sentivo chiaro chiaro al 10, Ma nella 27. E allora, la 28. Grazia! Ehi, dimmi! Che sono, ne ho visto un paio, sono da 80-85, sui B. Ehi, siccome lo voleva sapere un amico, ho detto che adesso sono costano anche più poco, prova a chiedere, a farti un giro, a guardare su internet, e dopo lo trovi di meno te lo prendi. Su B fanno guardare, là ci sono, va. Ok, ripresi, sto ascolto un attimino. Eia, allora Luca, cos'è, non te ne ha fatto abbassare a capo? Boh, cazzo di... No, noi non l'ha fatto passare, ma non voleva piazzarla proprio lì. Infatti mi stavo mezzo attaccando, capito? E niente, vabbè, dai, meglio... È meglio sorvolare, là, molte volte è meglio sorvolare, sembra che poi per una cazzata, per un'antenna da niente, poi succede veramente una guerra, è grossa pure. E tu mettila nella ringhiera, cosa ti ne ha fatto? Non la ci butta tutta nella ringhiera, la butti buoni sopra per non avere problemi, capito? Boh, a me non si è permesso mai nessuno di dirmi, vengono a dirmi cosa, e allora che la capisciuia, la suia, boh. Ehi, vabbè, tu sei fortunato che c'era quarto piano, se fosse stato un altro piano, che cavolo dovevi passare in faccia, ti avrebbero detto cosa. Ehi, qualche giorno già te lo dico io dove lo puoi passare il capo, oh. Dentro il tubo dello sfiato dell'aria sul tetto hai visto c'è un buco? Beh, entro lì e poi? Lì scola acqua, no? Quel tubo lì passa a fianco al bagno, passa al gabinetto. Se tu fai un buco senza bucare il tubo, a fianco al tubo lì ci scendi il capo da lì e dopo vedi nulla. No, non è che dietro non vedi nulla, anche se io lo mando dalla parte della camera da letto, lui non gliene frega niente, è che dalla parte della facciata sua non lo vuole, capito? Cazzo, che fastidio lì, là di no che tu gavi, chi tu va a ricavi di l'antenna? Beh. E vabbè, pazienza, meglio sorvolare, non mi interessa, non è che fa una cazzata. Alla fine sono cazzate queste, perché poi sono delle tragedie veramente, meglio evitare, là. Se non lo puoi far scendere dall'altra parte, però la devi spostare l'antenna, dalla parte della tromba delle scale, dove ci sono le finestre. Da me non si vede nulla, mi lo qui. Fino in facciata non ne ho io, perché dal tetto l'ho girato e l'ho fatto entrare, ho fatto un buco traversale da cucina verso la finestra del pianerottolo. Entrano da lì e mi entra in cucina sopra i pensili, il filo. Anche tu, lì è come da me, secondo me lo si buffa da dove sono le finestre delle scale, però quelle nell'angolo mi. Ma io non abito all'ultimo piano, ragazzi. Se abitavo all'ultimo piano non c'erano stati problemi. Oh, una grande, purtroppo abito al terzo piano, è un casino. No, ma ragazzi, ti ripeto che quella antenna lì, la boomerang, più cavo metti, ok, e meno rende. Meno cavo metti, più rende, capito? Tutto qua. Metto dalla parte della camera da letto, non fa, perché mi devo fare la calata lì, poi sistemarlo bene. Una volta sistemato bene, cameretta, fare un altro tiro troppo lungo, non fa, dai, no, la lascio lì dove adesso, buonanotte. Se no la metto in camera da letto, nel muro alto lì, due staffe, e la metto lì. Dove c'è il muro del terrazzo, anche lì va bene. Infatti la metterò lì, dai, adesso vediamo, mi organizzo, la metterò, mi compro il cavo perché non mi basta. Anche lì già va bene, a voi che andate. Chiaro, allora ti bacchino, riprendi. Sì, questo problema di antenne, è un problematico. E non si può altro fare altro. Non si poteva fare, poi nulla mi pare. Solo il sistema dove sta dicendo Graziano e boh. Ma e se la fai passare facciato dietro il tubo col pluviale, la vede lui? No, non è che lui, allora non è che non vuole che non vuole la piazza, attenzione, è che purtroppo lì dove la stavo piazzando io mi veniva bene, mi entrava giusto il cavo da cameretta. Passando dall'altra parte devo fare un giro grande e non va bene, il cavo è troppo lungo in quell'antenna, non va bene. Se la boomerang si mangia tutto in strada, perde tutto. Mettilo da questa parte del salone, già andava in ma stessi, ma sopra il muro. E se no posso pigliare un cavo pure più racconto. Ma, sempre uno che ha pavità. E non sai che sempre così, sempre che come roba è un carro, poi. Ma come si può proprio non là, dai, meglio sul volare, va. Meglio evitare. Poi voi si attaccavano l'antenna, capito? Se fosse stata una cosa magari più importante, allora le cose sarebbero cambiate. Però per piazzarsi la parabola, le altre antenne, io non l'ho mai detto nulla, non me ne ha fatto un cazzo a me. Se buono in facciata, se non buono in facciata, no, è roba mia. E dunque a me fastidio non me ne danno, capi? Invece il mio, in facciata, no, non è visto niente, perché l'ho passato nell'angolino, non si vede neanche da me il filo, vedi un pezzettino e buh. È così, non si ha. Bisogna nascondersi. Dico stasera. Invece dove ce l'avevo prima mi cadeva nell'altro terrazzo, nel terrazzo mio stesso, nell'altro terrazzo dove c'ha i fiori mia moglie, e non dava fastidio a nessuno, ma anche lì andava bene, tu sei come me sul terrazzo, puoi fare quello che vuole. E allora una volta uno mi ha detto che va al garage rioso da me, mi ha fatto ma è stato la trovacino, lo do io, e la giudizio sì, ma che mi dice il bilà, la TV, e chi c'è sta zero grazie al cielo, la dice ma buono mi si è fatto una cagata, solo tu hai pavitato, tutta la gente che vero che non mi ha mai detto un cazzo, e tu sei di dire vanno a parte la televisione e girami il coglione, così la giudizio. E non ha pavitato più. Lei forse lo prende in bocca e non fa vitata più. Se quando mi dica buongiorno e buonasera, vai a ammazzati, cazzo cos'è, non mi dici più nulla. E si crede ad aver avuto un guascio. Non per niente, non sa cosa dire, allora pagisci e apri la bocca. E pagisci. Sì, l'abbiamo uno vicino di casa, 80 anni fa, quindi si può la televisione, non ci ho abitato male, non mi ha staccato più. Anche quando ero in casa della buonanima di mamma, il latte è dolce. Cado cacchetti non mi diceva che cosa, si rimandava in affanculo e gli diceva girarmi il coglione, che io in casa mia fosse visto che mi piace, Sentilo, ho venito a dirmi cosa devo fare. E ammazzati. Allora mi abbaitava arrivare a ridurre. E abbaitami bimbi. Maleducato. E allora, a ce la faccio a farmi comandare in casa mia, bravi. Hai fatto bene, grazie. Non ho capito. Buonasera a tutti, io sono in ascolto, ma adesso faccio qualcosa, riprendi, grazie. Ehi, ciao Mari, cazzo, che fai turrato? Ma che mi piaccio sotto, non penso proprio. Nulla. Ognuno deve passare l'undicesimo comandamento e si campa di più. E in campagna romatezzi, qualche volta, qualche di rimetto, qualche cosa gli dizia. No, chissà, noi non andiamo in baracchina, lo vedi che sei dotto, che c'è un parafulmine. Ah, un parafulmine, e dire che c'è un parafulmine. Vai a studiare, vai, che mi ne la gusta. Fatti lo conto, non te ne conosci l'antenna, che c'è. Apri la lanterna della cosa, la verticale fa un parafulmine. La voce lo vuoi avere il radiale. Ehi, la gente, chi c'è un parafulmine? Cosa cazzo l'antenna? Ma riconosce l'antenna? E chi tu si è abito? Non comprendi un cazzo l'antenna? Appunto, ti ho detto parafulmine, ci assomiglia a un parafulmine, lo stilo, beh. Dunque, potrebbe essere anche un parafulmine. Oh, yeah. Luca, avanti. Luca, tu rivedi, guarda che questo è un parafulmine, a chi si imbecille. Lo sto piazzando per riservare il palazzo, non si sa mai. Allora, anzi, un'opera di bene. Mi dovete pagare, se comprendi, poi del parafulmine sopra. E lo cavolo so come Dio. Dunque, ditemi a che cosa e avete tutto un altro parafulmine. E allora, la mia con chi c'è isolato già tutto il barazzo, imbecille. Ah, se vanno nel piazzo via mi dai 50 euro si va a piazzarlo. Ma chi si dà piazzo 50 euro?